in primo piano. Buongiorno, buon giovedì, buona Immacolata Concezione da Giulia Crivelli. Ci troviamo oggi senza la prima mezz'ora, quella del Parlamento. Ci dedichiamo solo alla lettura dei giornali da qui fino a circa le 8 con Mauro Meazza, che invece non ci abbandona, e lo chiameremo verso le 7:41 e ci racconterà tutto del Sole 24 Ore, che oggi è particolarmente ricco perché è il giornale che dà più spazio alla manovra. E cominciamo quindi, vi cito solo la prima pagina del Sole 24 Ore. Siamo l'unico giornale che ha un'apertura proprio a 7 colonne, in questo caso sui due eventi di ieri, cioè che è stata approvata la manovra finanziaria, la cosiddetta legge di bilancio, e questo è il titolo, virgola, Renzi si dimette, perché questo è l'altro evento di ieri. E Giorgio Santilli, vi leggo le prime righe perché questa è davvero da notare, questa anomalia che si è registrata ieri: la manovra di bilancio è legge, la crisi politica ha favorito un'approvazione rapidissima in Parlamento come non si era mai vista. Moltissime anche naturalmente le altre notizie in prima pagina, e anche il Sole 24 Ore, come tutti i giornali, mette in prima pagina l'apertura della stagione lirica della Scala di ieri, che si svolge sempre il giorno di Sant'Ambrogio, il patrono della città, con questo trionfo, perché sono stati 13, alcuni dicono 14 minuti, gli applausi alla fine. Il trionfo della Butterfly, antica e moderna, l'articolo della esperta di lirica e di musica classica in generale, Carla Moreni, comincia in prima pagina e poi continua a pagina 22. Ma vediamo il Corriere della Sera. Mattarella, tre ipotesi per la crisi, come potete immaginare, direi tutti i giornali, tutti i giornali aprono su appunto quello che è successo ieri, l'altro, abbiamo detto, due grandi eventi che ci riguardano tutti in Italia ieri: da una parte l'approvazione della legge di bilancio e dall'altra le dimissioni di Renzi. Come potete immaginare sono tantissimi i commenti, ma non so nemmeno se ve ne cito qualcuno, ma non ne leggerò alcuno, anche perché parliamo appunto di ipotesi, quindi tutto quello che la giornata di oggi è destinata a portare molte novità, quello che si scrive oggi sono sostanzialmente dei retroscena. L'unico dato di fatto è che appunto Renzi ha presentato le dimissioni ieri intorno alle 19 al capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha accettate con riserva. Da qui la ridda di ipotesi. La fotonotizia è quella della Madama Butterfly per il Corriere, e per quanto riguarda l'approvazione della legge finanziaria, Enrico Marro e Mario Sensini ci ricordano in prima pagina e poi a pagina 13 che adesso però mancano i 60 decreti attuativi. Non ci stancheremo mai di dire che qualsiasi legge venga approvata dal Parlamento ha poi bisogno, se appunto non è un decreto legge ma una legge, dei decreti attuativi, che sono poi quello che permette davvero di implementare la legge. Il Messaggero ha un titolo praticamente uguale a quello del Corriere: crisi, tre strade per il governo, anche qui tantissimi commenti. Vi segnalo dal Messaggero una notizia un po' da mani sul volante, se Alessandro fosse qui con noi. Roma, non erano malati i vigili di Capodanno, ricorderete quella vicenda esattamente praticamente un anno fa, quando nelle strade di Roma per Capodanno, e sappiamo quanto possa essere importante presidiare le strade nella notte di Capodanno, i vigili erano in minimo numero perché molti si diedero malati. Adesso 22 dei medici che certificarono la malattia sono a processo, perché ricorda il Messaggero, furono 748 i vigili che appunto per qualche motivo, molti di loro con un certificato medico, rimasero a casa in quella notte. Il Messaggero mette anche in prima pagina l'aggiornamento sul caso Regeni, Giulio Regeni, il giovane ricercatore che era al Cairo ma studiava all'Università di Cambridge in Inghilterra, che fu assassinato il 22 gennaio di quest'anno, quindi è passato anche qui già quasi un anno, non si sa praticamente niente dei mandanti e poi degli esecutori di questo assassinio. E oltretutto sappiamo anche dalle autopsie, due autopsie, una fatta al Cairo e una fatta in Italia, che Giulio venne anche torturato prima di essere ucciso. C'è ora un aggiornamento perché appunto la Procura Generale del Cairo ieri per la prima volta ha fornito ai colleghi romani i nomi dei poliziotti che avrebbero seguito Giulio Regeni, che era stato un po' vittima di il capo dei sindacalisti dei venditori ambulanti, che lo aveva per contrasti prima con lui, lo aveva poi indicato alla polizia come un sobillatore, e da qui appunto questo piedinamento della polizia, che però a quanto dichiara la procura del Cairo poi finì in nulla, come per dire noi non c'entriamo poi niente con la morte di Giulio Regeni. La Repubblica, Quirinale, ipotesi Renzi bis, e questo ha quindi un titolo leggermente diverso da quello del Corriere della Repubblica. Ci sarebbe appunto non tre ipotesi, ma quella più accreditata secondo la Repubblica è quella di un secondo governo Renzi. Anche qui tantissimi i commenti, ma vi segnalo dalla prima pagina il nostro tuttologo Roberto Saviano, che oggi si esercita su Roma. Cara Raggi, abbia il coraggio di guardare la ferita di Roma, ed è appunto tutto un'analisi di quello che sta succedendo a Roma. Saviano si concentra soprattutto sulla piaga dello spaccio e ripercorre anche gli ultimi arresti e gli ultimi fatti di cronaca. La fotonotizia anche in questo caso è la Madama Butterfly, con questa foto molto suggestiva perché sullo sfondo, sul palco della Madama Butterfly, per le ultime scene erano anche stati allestiti dei ciliegi. Sapete che la Madama Butterfly è ambientata in parte in Giappone e il Giappone è famoso anche per questa tradizione della fioritura dei ciliegi. La Stampa, Padoano Gentiloni per il dopo Renzi, quindi la Stampa invece accredita l'ipotesi non di un Renzi bis, ma di un governo guidato o dal ministro dell'economia Padoan o da quello degli esteri Gentiloni. Molti giornali raccontano anche dell'intervento lampo al congresso del PD ieri di Renzi, perché Renzi è arrivato alle 6:30, poi è andato via in tutta fretta perché aveva l'altro appuntamento al Quirinale. Vedremo se questo congresso poi, se oggi ci saranno degli aggiornamenti anche su questo. Anche la Stampa ha una fotonotizia dedicata alla Madama Butterfly, e il titolo è La rivincita di Puccini alla Scala, perché c'è questo retroscena che quando la Madama Butterfly, l'opera appunto di Puccini, andò in scena per la prima volta alla Scala nel 1904, fu fischiata, mentre come abbiamo detto ieri ha avuto 14 minuti di applausi. Vi segnalo, perché ieri sono successe molte altre cose nel mondo e purtroppo appunto la nostra informazione, purtroppo per forza di cose potremmo dire, è stata monopolizzata dalla crisi di governo e dall'approvazione dell'approvazione lampo della legge finanziaria, con tanto di voto di fiducia al governo, con questo paradosso che il governo dimissionario è andato a consegnare le dimissioni poche ore dopo aver incassato la fiducia del Parlamento. Ma è una delle tante stranezze di questa crisi, potremmo dire della politica italiana, o forse della politica di tutti i paesi. Ma vi dicevo, sono successe tante altre cose nel mondo. La Stampa in particolare mette in prima pagina le novità che sono arrivate dall'America, perché il presidente eletto Donald Trump prosegue nella costruzione del suo governo, e ieri è stato infatti arruolato, come spiega la Stampa in prima pagina, il terzo generale. La sicurezza nazionale sarà in mano appunto al terzo generale tra quelli nominati da Donald Trump. Si tratta di anche lui un generale dei Marine, si chiama John Kelly e sarà al vertice della Homeland Security, che è un po' l'equivalente del nostro Ministero dell'Interno. Vi segnalo anche un bellissimo reportage di Carlo Pizzati dall'India. L'India è in una profonda crisi economica e a questo reportage si abbina anche il numero in edicola come ogni giovedì di Origami, che è quel supplemento della Stampa molto originale, perché se lo vedete alla dimensione di un foglio A4, per leggerlo bisogna aprirlo completamente, stenderlo su un tavolo. Oggi ha sempre un tema, è sempre dedicato a un tema. Oggi è dedicato all'India. Corri India, corri, la più grande democrazia del mondo, 1.200.000.000 di abitanti, è nel caos. L'8 novembre il primo ministro Narendra Modi ha annunciato in TV che le banconote da 500 e 1000 rupie, che valgono circa 7 e 14 euro, l'indomani avrebbero perso il loro valore. Pensate che che shock, una decisione di portata colossale presa per stroncare la corruzione e far emergere il business illegale, cioè la maggior parte dell'economia indiana, ma che ha portato il paese al di là di una crisi di nervi. Vi raccontiamo cosa sta succedendo da quel giorno, quasi alla vigilia delle elezioni di febbraio, che saranno la prima prova per questo primo ministro dai tratti populisti e autoritari. Analisi di un paese che dopo la crisi dei rapporti con l'Italia dovuta alla vicenda dei Marò abbiamo spesso trascurato e male interpretato. Non soltanto l'Italia, cioè forse tutta l'Europa sta trascurando appunto questo paese, la più grande democrazia del mondo, 1.200.000.000 di abitanti, che a febbraio andrà alle elezioni. Parliamo sempre delle elezioni politiche che aspettano l'Europa, forse dovremmo ricordarci più spesso anche quelle appunto dell'India o di altri paesi. Approfitto per dirvi che se siete alzati, anche se per la maggior parte delle persone oggi è un giorno di festa, potete mandarci dei messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp, e ringrazio Gianni che alle 7.04 faceva gli auguri a tutti noi della radio. Vi segnalo il secolo XIX perché ha un titolo ancora diverso: Renzi subito il congresso, cioè ci vuole proprio il congresso. Sapete che non è nella direzione generale del PD che Renzi potrà essere eventualmente sfiduciato, ci vuole appunto un nuovo congresso perché, come alcuni del suo stesso partito hanno ipotizzato, lasci, oltre alla possibile guida del governo, a meno che non ci sia un Renzi bis, lasci anche la guida del partito. Vi segnalo il secolo XIX anche perché la fotonotizia è diversa da tutti gli altri giornali, dedicata alle crociere. Si è molto speculato su che cosa succederà ai rapporti tra Stati Uniti e Cuba con la presidenza Trump, rapporti che erano stati scongelati dalla presidenza Obama. In realtà chi pensava che ci sarebbe stata una marcia indietro su queste aperture, come forse ci sarà per quelle che riguardano l'Iran, anche questo è frutto della presidenza Obama, in realtà il primo segnale viene dalle navi da crociera, la prima apertura di Cuba a Trump, il governo dell'isola sblocca le navi delle compagnie americane. La verità, Renzi a caccia di stipendio, naturalmente il tema è sempre quello delle dimissioni accettate con riserva, ma la verità sceglie di concentrarsi sul fatto che Renzi è un politico di professione, il premier uscente perde il suo unico reddito, sapete che Matteo Renzi non è un parlamentare, ora deve convincere il PD a remunerare la carica di segretario oppure farsi mantenere da qualche imprenditore amico. Il giornale La vendetta di Renzi, paralizzare il paese, questa è la lettura della crisi da parte del giornale, che nell'occhiello scrive addirittura mossa folle, il premier si dimette ma resta in carica, chiede un governo di solidarietà, nessuno accetta le sue condizioni e nel caos Moody's, ieri una delle tre agenzie di rating, ha declassato l'Italia. In prima pagina il giornale spiega anche molto chiaramente questa questione del vitalizio che scatterà esattamente dopo 4 anni, 6 mesi e 1 giorno dall'inizio della legislatura. Se si vota prima, addio vitalizio. Questa data è il 16 settembre 2017, quindi molti pensano che prima di quella data non si andrà a votare perché 600 onorevoli sui circa più di 800 che ci sono nelle nostre due camere, se non raggiungeranno quella data, appunto non avranno poi il vitalizio. Gli altri invece, agli altri non importa perché non sono di prima legislatura, quindi il vitalizio ce l'hanno garantito comunque. E vi segnalo dal giornale che oggi abbiamo detto, ho detto all'inizio, in realtà oggi succederanno molte altre cose che ci faranno capire dove va questa crisi. Il giornale a pagina 2 pubblica il calendario di oggi ed è veramente impressionante perché alle 18 l'incontro con il presidente del Senato Pietro Grasso, a seguire quello con il presidente, anche se lei vuole essere chiamata la presidente della Camera, Laura Boldrini, poi l'incontro con il presidente emerito della Repubblica Napolitano. E il tabellino di marcia di domani, ancora più di oggi, è appunto ogni quarto d'ora praticamente un incontro con un gruppo o un partito parlamentare. Quindi in realtà è oggi una possibile giornata decisiva, ma soprattutto domani e dopo. Ci lasciamo però un attimo per una pausa, ci ritroviamo tra qualche minuto. In primo piano, Ancora buongiorno, buona Immacolata Concezione da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, vi citavo questa spiegazione molto dettagliata che il giornale pubblica, richiamandola in prima pagina, a pagina 10, sul perché il 16 settembre 2017 è una data chiave per molti parlamentari, circa 600, cioè tutti quelli che sono alla prima legislatura, perché si arriva a quella data, quindi al 16 settembre, saranno trascorsi 4 anni, 6 mesi e un giorno, e quindi quando questi parlamentari compiranno 65 anni, non prima per fortuna, riceveranno una pensione da 3.186 euro per aver versato appunto contributi per 4 anni, 6 mesi e un giorno. È una di quelle cose che già così sembra un'enormità, ma pensate che fino al 2012 bastava un giorno in Parlamento per maturare questo vitalizio. Viene chiamato così, ma è di fatto una pensione, appunto. Il Fatto Quotidiano ha un titolo tutto sommato simile a quello del giornale: Renzi si dimette, in bavaglia il PD che l'ha mollato. Il manifesto Affari spenti, e la foto scelta dal manifesto è molto buia perché è stata scattata appunto alla macchina che portava Renzi al Quirinale. Lui è seduto dietro, davanti c'è un autista e penso una guardia del corpo. Il titolo principale però dell'articolo che commenta l'altro fatto, come dicevamo, che è quello dell'approvazione della manovra della legge di bilancio, è al via la manovra degli esclusi. In prima pagina anche la questione Geni, come ha fatto il Messaggero, verità e responsabilità di Matteo Renzi, quindi come si è mosso il governo su questa vicenda ricercatore universitario ucciso il 22 gennaio di quest'anno. Libero, tutto fermo, devono litigare. Sempre in prima pagina un accenno a quello che è successo ieri a Silvio Berlusconi. Secondo alcuni è andato al San Raffaele solo per fare un controllo, mentre secondo quello che dice Libero è: che paura Silvio, ricoverato ancora. Si sarebbe trattato infatti non proprio di un controllo, ma di stress post voto. Poi vi segnalo, visto che insomma qui a Radio 24 tutti conosciamo la sua voce, un articolo in prima pagina di Giuseppe Cruciani che si dedica a quello che è alle dichiarazioni, commenta le dichiarazioni di Papa Bergoglio, che ha definito la TV un mezzo per coprofagi. E il commento di Giuseppe Cruciani, molto polemico, è: Bergoglio denigra la TV dove però è onnipresente. Vi leggo le prime righe, poi trovate l'articolo a pagina 15. Praticamente il Papa si augura che TV, radio e giornali in tutto il globo terracqueo chiudano bottega e magari sopravviva solo l'Osservatore Romano, Radio Vaticana e forse Piero Angela. La Gazzetta dello Sport ve la, naturalmente, come potete immaginare, dedica tantissime pagine alla partita di ieri della Juventus, che ha battuto in Champions League 2-0 la Dinamo Zagabria. Mi fa un po' effetto perché ieri c'è stata anche un'altra bellissima vittoria, che è quella di Federica Pellegrini, che ha vinto un altro oro ai mondiali in vasca corta, e poi anche Carolina Kostner, che tornata in gara sul ghiaccio. E sì, c'è un richiamo in copertina, ma poi gli articoli li trovate a pagina 22 della Gazzetta dello Sport. A proposito di calciatori, mi ha fatto molto effetto questa notizia che ho trovato sulla prima pagina di Italia Oggi. Da una ricerca emerge che la metà dei calciatori guadagna solamente 930 euro al mese, e sappiamo che in realtà gli stipendi di cui normalmente sentiamo parlare dei calciatori sono ben altri. L'articolo poi lo trovate a pagina 16. La metà dei calciatori guadagna soltanto 930 euro al mese, ingaggi d'oro per l'1% dei calciatori professionisti, mentre per gli altri precariato e violenze. È una ricerca condotta dalla FIFPRO su 14.000 giocatori di 54 paesi e di 84 leghe. L'unità o tutti insieme o si vota è un virgolettato, perché sapete che tra le poche tutto sommato cose che ha detto ieri Renzi davanti al suo partito, alla dirigenza del suo partito, c'è un altro governo, si può fare un governo che eviti lo scioglimento delle Camere solo se tutti vi saranno rappresentati. E da qui anche, se volete, il titolo del giornale, perché è talmente improbabile questa ipotesi, cioè di un governo che metta insieme tutte le forze politiche, che è appunto come, secondo l'interpretazione del giornale, è come dire: un governo non ci sarà, quindi paralisi. Il Foglio, come sapete, Giuliano Ferrara, il fondatore del Foglio e ora editorialista, è stato tra i sostenitori del sì al referendum, quindi un po' implicitamente o forse non implicitamente anche del governo Renzi, e continua, quindi è tra i delusi del risultato referendario. Il titolo del suo commento di oggi è «Non si sospende la democrazia». E usato come sommario, ma sono anche poi le ultime righe dell'articolo, Ferrara scrive: «Renzi vada come un treno alle elezioni con la sacrosanta legge elettorale che c'è, oppure si rifugia a Cupertino a Palo Alto», sono due località della California, «aspettando tempi migliori che non verranno mai». L'Avvenire anche oggi titola come tutti gli altri giornali: Renzi lascia crisi al buio, oggi iniziano le consultazioni, e poi c'è un'analisi della manovra di bilancio. È l'unico giornale a mettere in prima pagina un aggiornamento sulla guerra in Siria, perché ieri succedevano anche altre cose nel mondo, come dobbiamo penso ricordarci tutti, e soprattutto quella guerra che dura da più di 3 anni in Siria. Non si vede una soluzione, continua a esserci anche uno scontro su come risolvere la crisi tra le due maggiori, forse anche tre, ma soprattutto tra le due maggiori potenze mondiali, cioè la Russia di Putin e gli Stati Uniti, perché non si riesce a salvare Aleppo, che è la città da più tempo sotto assedio, dove si sa che ci sono emergenze umanitarie e sanitarie di ogni genere. A proposito di Berlusconi, abbiamo detto prima che c'è un po' di non si capisce, ecco, per esempio il giornale appunto scrive, mentre Libero diceva che è stato un allarme da stress, il giornale scrive che è stato un controllo di routine. Ma vi segnalo dal giornale a pagina 11 una spiegazione molto completa di questa vicenda del voto della Corte Europea di Strasburgo, che potrebbe reintegrare Berlusconi, che sapete in questo momento non può candidarsi per le condanne che ha avuto. Però c'è stato questo ricorso alla Corte Europea di Strasburgo, orchestrato da Niccolò Ghedini, che è forse il più famoso dei tanti avvocati di Berlusconi, è anche un parlamentare di Forza Italia, ma pare che sia, no, pare, è sempre al vertice delle classifiche di assenteismo al Parlamento, perché come vediamo ha ben altro da fare, e parrebbe appunto che Berlusconi abbia molte speranze in una sentenza positiva della Corte Europea. Berlusconi ritorna centrale, ma i guai devi risolverli il PD. Respinti in ciuccio governissimi, ora il leader di Forza Italia studia il dossier su legge elettorale proporzionale preferenze. Come dire, sono pronto, comincio già a portarmi avanti, perché quando arriverà questa sentenza della Corte Europea di Strasburgo potrò tornare in campo, per usare un'espressione che lui ha usato per prima e che gli è ancora molto cara. Però adesso c'è Mauro Meazza, che non ci abbandona neanche nel giorno dell'Immacolata Concezione, e che ci spiega meglio tutto quello che troviamo oggi sul Sole 24 Ore. Oh, buongiorno Giulia, pensavo volessi legarlo a questioni sempre di Berlusconi, perché oggi tra le molte cose che ci sono sul Sole 24 Ore, anche questa indicazione sul closing del Milan, che forse non ti interessa tantissimo, però non so quanto tu sia appassionata di calcio, però ecco, il closing slitta, no, chi non l'avesse sentito ieri, slitta a marzo, però c'è un'ulteriore caparra che verrebbe versata a brevissimo, entro lunedì, di altri 100 milioni, questo tanto per. E lo trovate tutto questo nelle pagine di Finanza, che tu, cara Giulia, leggerai come io so che farai avidamente, come si conviene alle pagine di Finanza. Ti voglio segnalare però che adesso servirebbero 650 milioni. Non so se Milan ha lasciato lì i suoi 2 urini, ma ti spiego perché. Perché non aboliamo le province. No. E non so, non vorrei suscitare la tua delusione, però tra i molti effetti del voto referendario c'è il fatto che le province restano in Costituzione, e quindi a questo punto la loro abolizione, diciamo che non si pone più. Però servirebbero a questo punto, siccome intanto sono state previste delle novità e sono già entrate in vigore, servono dei fondi per garantirne il funzionamento. Non abbiamo più le elezioni provinciali, non ci sono più molte cose, ma tutto questo viene spiegato da Gianni Trovati oggi a pagina 7 del Sole 24 Ore. Quindi questa non è una settimana decisiva per le abolizioni delle province, tutt'altro. Ecco, io questo non avevo il coraggio di dirlo, però ti ringrazio di averlo detto tu. Magari poi bisognerà trovare anche il coraggio di dirlo ad Alessandro Milan al suo rientro dal ponte. Oh, a proposito di ponte, sul Sole 24 Ore leggerai anche che sono in vacanza per lo circa 7 milioni di nostri connazionali, per lo più in Italia, secondo le stime di Federalberghi nel 93% dei casi. Ma è tutto spiegato dall'amico Francesco Prisco nelle pagine di Imprese e Territori, che tu puoi leggere invece scrupolosamente. Però dici quante pagine sono dedicate alla manovra, anche perché poi da domani parte uno speciale, no? Questa è ti ringrazio di questa domanda, ti ringrazio moltissimo di questa domanda che mi dà l'occasione di spiegare una serie di contenuti odierni, ma anche futuri sul Sole 24 Ore. Allora, fuori di Celia, diciamo che innanzitutto c'è un rating, sai, il rating 24, per verificare ciò che è contenuto nella manovra e quale può essere il suo impatto. E qui andiamo dal conto complessivo della manovra, quindi 27 miliardi, ma poi ci sono tutte le varie misure dettagliate nelle pagine 2 e 3, quindi cosa c'è nella manovra che da ieri è diventata legge, che ha completato il percorso che era stato avviato dal decreto legge fiscale. Ma se tu poi prendi e direi a questo punto conservi le pagine di norme e tributi di oggi, che stanno, come sai, in una sezione a parte, ecco, allora lì troverai tutta una prima spiegazione dettagliata di quelle misure. E andiamo dal maxi e iperammortamento per gli investimenti in tecnologia. Cominciamo dall'APE, non abbiamo parlato per un po', l'anticipo pensionistico, ecco, è diventato legge, mancano poi dei provvedimenti di completamento, ma come sai l'APE è una, ma è anche trina, perché c'è l'APE social, c'è l'APE volontaria, e quindi tutto è spiegato lì nelle pagine di norme e tributi. Un iter un po' più complicato di quello che potrebbero avere i nostri parlamentari, eh? Diciamo che dobbiamo impostare diverse pagine proprio nel conto di oggi, credo siano 6 complessivamente, per illustrare le varie misure. Ma poi nella manovra c'è anche l'IRI, ad esempio. Sai cos'è l'IRI? Forse ti sarà sfuggito, ma ti aiuto. È l'imposta sul reddito d'impresa, che riguarda specialmente le imprese individuali, e così via, insomma, enumerando. Da domani, poiché appunto la manovra è abbastanza complessa da spiegare, partiranno una serie di pagine ad approfondimenti mirati, che quindi spiegano nel dettaglio quello che oggi riassumiamo per sommi capi. Riassumiamo forse è una parola un pochino imprecisa e ingenerosa, diciamo oggi tratteggiamo le linee principali nelle pagine appunto di norme e tributi, e poi da domani una serie di indicazioni particolareggiate sulle varie misure. Questo per quanto riguarda la legge di bilancio, ma tu sai che la manovra aveva un aperitivo, lo chiamavamo anche apericena, era il decreto legge fiscale. Allora, le pagine di norme e tributi, oggi un numero da collezione, a questo punto lo dico, da collezione, perché ci sono anche le indicazioni su quello che viene contenuto nel decreto legge fiscale a proposito di depositi IVA e di accise. Ma a questo punto dovremmo aprire qui Radio Fisco, e secondo me non c'è più tempo. Non c'è tempo. Lascio così gli ascoltatori. Le accise, cosa saranno le accise? Leggete su norme e tributi. Per il momento, traffico! In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che ci stanno mandando i messaggi, grazie anche a chi manda messaggi non proprio lusinghieri per me, ma insomma ci stanno anche quelli, in particolare a chi così ha notato il mio commento sul lavoro di Saviano. Io non provo alcuna invidia per lui, è uno dei forse pochi difetti che non ho, quello di provare invidia, semplicemente non mi piace, non apprezzo particolarmente il suo atteggiamento da tuttologo, questo fatto salvo il suo grandissimo talento e i meriti per aver scritto, come mi ricorda un ascoltatore, un libro come Gomorra quando aveva solo 26 anni. Ma torniamo alle pagine interne dei giornali, o meglio andiamo nelle pagine interne dei giornali. Vi dicevo che solo alcuni giornali, pochissimi purtroppo, in particolare Avvenire, ci parla di Aleppo, della guerra in Siria, però il Corriere della Sera a pagina 15 ha un articolo intitolato Diario da Aleppo di Michele Farina, che cerca appunto di ancora una volta ricordarci che cosa sta succedendo in questa città, in questa martoriata città siriana. I soldati di Assad a un passo dalla vittoria finale, purtroppo lo sentiamo dire questa parola finale, questo aggettivo finale da troppi giorni: vittoria finale, assedio finale, sconfitta finale. Tra le macerie una bimba di 7 anni continua a twittare: anche le mie bambole sono morte. Quindi piccoli racconti, piccoli spunti di Michele Farina che possono darci una vaga, per quanto vaga, idea di quello che appunto succede ad Aleppo. Parlavamo prima dei dati record del turismo in Italia. Chi riesce a fare il ponte lo farà in Italia, e il Corriere della Sera invece ci racconta che Parigi è in crisi di turismo. Non è una novità di oggi, è una delle conseguenze degli attentati. E Stefano Montefiori, corrispondente del Corriere da Parigi, racconta tavoli vuoti nella Parigi bohemienne. La paura degli attentati dimezza i turisti, per esempio nella Parigi cosiddetta bohemienne, cioè soprattutto del quartiere di Montparnasse. Conti in rosso per Dom e Coupole, che sono due caffè amati da Picasso e Camus. Un articolo divertente di Monica Guerzoni a pagina 25, perché come forse ho ricordato prima, l'ho chiamata il presidente della Camera, Laura Boldrini. Lei vuole essere rigorosamente chiamata la presidente o presidentessa della Camera. Continua la sua battaglia. Monica Guerzoni ci racconta: linguaggio di genere alla Camera, polemica per le regole di Laura Boldrini, che ha messo proprio nero su bianco che questa necessità, secondo lei, quasi diventa un obbligo di usare, appunto, di declinare al femminile tutte le cariche, tutto quello che viene declinato al maschile, a volte anche quando è una donna a ricoprire quella carica. E a proposito di linguaggio, anche dell'importanza, certo, del linguaggio, Dario Di Vico ci racconta invece a pagina 27 la nuova burocrazia in dialetto veneto. È stato infatti approvato questo bilinguismo, ma Dario Di Vico raccoglie un po' le voci contrarie e dice: è un rischio, la regione rischia così di chiudersi in se stessa. A proposito di Trump, lo abbiamo nominato prima per le nuove nomine che ha fatto, e poi avete sentito è anche stato scelto come persona dell'anno da Time, il settimanale americano. Ogni anno fa questa scelta e mette in copertina su uno degli ultimi numeri dell'anno appunto la persona che è stata scelta. Ma di fianco a questo c'è Federico Rampini, corrispondente da New York, racconta la sfida di Trump. Basta Air Force One, costa troppo, avrebbe detto appunto Trump. Io voglio far guadagnare la Boeing, che costruisce l'Air Force One, come voglio far guadagnare tutte le imprese americane, ma non così tanto. E a proposito di cieli e di compagnie aeree, sul giornale ho trovato una notizia che non ho visto altrove, e cioè sulle nuove regole dell'ENAV, che è l'ente che regola il traffico nei nostri cieli. Ha accorciato le rotte, per chi vola sopra gli 11.000 metri, cioè ovviamente tutti i voli quindi di compagnie aeree e non voli privati, potrà fare delle scorciatoie. Queste scorciatoie potranno ridurre il consumo di carburante, e questo per Alitalia si tradurrebbe, secondo la stima dell'ENAV e del giornale, in risparmi per 7,5 milioni all'anno. Purtroppo però sono, come dicono gli americani, peanuts, perché Alitalia nel 2015, tenetevi forte, ha perso 545 mila euro al giorno per un totale di 199 milioni. Potrebbe risparmiarne 7,5, capite che appunto è un piccolo risparmio. A proposito di voli, di aerei, su Repubblica un'indagine della London School of Economics da cui si ricava che stress e troppe ore ad alta quota, un pilota su due vola stanco. Il 50%, quindi un pilota su due, guida aerei sovraffaticato. Per risparmiare sempre di più, le compagnie low cost soprattutto chiedono ritmi insostenibili. Poi questa notizia che a me fa molto piacere, io adoro la posta elettronica, naturalmente apprezzo tutti i lati positivi di internet, della tecnologia, però come sapete sono anche un amante della carta, credo che i giornali e i libri non moriranno mai, e adesso scopriamo anche che anche gli LP stanno vivendo una seconda vita, è sorpasso più LP che download. In Inghilterra per la prima volta le vendite di vinili superano quelle relative alla musica digitale e sempre più, pensate, under 25, quindi nativi digitali, scelgono il vecchio 33 giri per aumentare la qualità dei propri ascolti. Sul Messaggero trovate tantissimi aggiornamenti sulla cronaca di Roma, perché la Giunta Raggi è di nuovo in difficoltà, perché l'assessore all'urbanistica Paolo Berdini ha minacciato di dare le dimissioni. Vi segnalo ultimissima segnalazione, anche qui un po' da mani sul volante, su una delle grandi vicende bancarie, che è quella della Banca Popolare della Popolare di Vicenza. Zonin, che ne è stato presidente dal 1996 al 2015 e quindi qualche responsabilità nel disastro ce l'avrà, fa causa alla Popolare di Vicenza. L'ex presidente cita in giudizio l'ex amministratore delegato e il suo vice perché per gestione scorretta e non controllabile, come dire, io non ho controllato ma non potevo controllare. Era l'ultima segnalazione per oggi, anche se ci sono moltissimi altri articoli interessanti sui giornali. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.